giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Trieste, incendio al Burger King di Viale 20 Settembre, locale frequentatissimo dai ragazzi, evacuato l'intero stabile di 5 piani, fumo visibile da diversi quartieri della città e delle rive. 18enne in gravi condizioni all'ospedale di Udine dopo un volo di 10 metri a bordo della sua moto, prima lo schianto contro un'auto a Cisterna di Coseano, a Udine un papà con la figlia investiti sulle strisce. Il crack della Banca Popolare di Vicenza, la Corte d'Appello di Venezia conferma la condanna di Gianni Zonin, ma dimezza la pena inflittagli in primo grado. Aumentano gli arrivi di migranti a Trieste, solo ieri erano 110, prefettura e comune di Trieste lavorano al progetto di una struttura di primissima accoglienza accanto alla stazione ferroviaria. In regione mancano medici di base, infermieri e guardie mediche, siamo sotto gli standard nazionali, a dirlo la Corte dei Conti in un rapporto sulla assetto organizzativo della sanità territoriale. Il caro energia, un nuovo recovery fund e misure eccezionali per evitare la chiusura di 120.000 imprese. A chiederlo dal Friuli il presidente di Confcommercio Sangalli. Un centinaio di lavoratori già in cassa integrazione tra le aziende dell'indotto di Varzila. Ieri il primo incontro dell'RSU con il nuovo AD di Varzila Italia che promette nuove relazioni sindacali. I costi alle stelle delle tariffe energetiche colpiscono anche i grandi eventi degli sport invernali, annullate le due gare di sci di fondo che sarebbero dovute partire da Tarvisio durante i mondiali di sci nordico. Per il centenario dalla nascita di Pasolini, Cinema Zero e Visionario offrono al pubblico una retrospettiva completa dei film con copie restaurate commentate da diversi esperti. Il mito di Romeo e Giulietta, conteso da Udine e Verona, rivive nel capoluogo friulano attraverso 9 pannelli allestiti dove sorgeva l'antico Palazzo Savornian, teatro del colpo di fulmine più famoso della storia. Le 7:20, buongiorno da Alessandra Zigaina e Anna Vitagliani. Vediamo la situazione del meteo, c'è nuvolosità variabile sulla regione, queste le temperature registrate alle 6. Trieste 15 gradi, il mare è calmo e ha una temperatura di 21,5 gradi. Gorizia 12, Udine 10,5, Pordenone 10, Tolmezzo 11, Forni di Sopra 10,5, Sappada e Piancavallo 6, Monte Lussari e Monte Zoncolan 7, Lignano 15,5, grado 15 con una temperatura del mare di 20 gradi. Le previsioni, cielo in genere variabile con più sole verso la costa dove soffierà Borino, mentre in montagna nel pomeriggio sarà possibile qualche locale pioggia, temperature massime miti e superiori alla norma del periodo. Sono ancora sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco di Trieste impegnate dalle 22 di ieri sera in un incendio scoppiato in uno stabile di Viale 20 Settembre a Trieste, a prendere fuoco il locale del piano terra, il Burger King, mentre era ancora aperto e con numerosi clienti all'interno. Le fiamme sarebbero scaturite nella zona della cucina, mentre il locale era, come detto, ancora aperto. Fuoco e fumo sono saliti rapidamente lungo una delle canne fumarie del palazzo di 5 piani, arrivando ad una falda del tetto. È stato evacuato l'intero stabile. Il fumo si è visto e sentito in molte zone della città. I vigili del fuoco sono arrivate segnalazioni da San Giacomo a Piazza Unità. Non risultano persone ferite o intossicate, al vaglio degli inquirenti ancora le cause dell'incendio. Sempre questa notte a Trieste è stata chiusa via Felice Veneziana, il prolungamento della via che scende dal colle di San Giusto e arriva sulle rive di Trieste. Un'auto è andata a sbattere contro un'impalcatura del rifacimento facciate, incastrandosi all'interno. La struttura risulta pericolante. I vigili del fuoco, che appunto erano già impegnati nel vasto incendio di Viale 20 Settembre, hanno potuto per il momento solo chiudere l'arteria fino a quando verrà rimossa l'auto e messa in sicurezza l'impalcatura da parte della ditta di costruzioni. È finito con la moto contro un'auto facendo un volo di 10 metri e ora è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Si tratta di un ragazzo di 18 anni rimasto coinvolto ieri sera in un incidente stradale lungo la regionale 464 a Cisterna di Coseano, vicino ad una rotonda. I carabinieri di Udine stanno tentando di ricostruire la dinamica dell'incidente e di capire come mai la moto su cui viaggiava il giovane è andata a schiantarsi contro un'auto. struttura. Il ragazzo ha riportato un trauma cranico e diverse lesioni, in particolare nella parte alta del corpo. Gli uomini del soccorso intervenuti sul posto hanno stabilizzato il ragazzo e poi lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sono stati investiti mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali un papà e una bambina di 10 anni ieri in Viale Palmanova. A travolgerli un'auto, alla guida c'era un uomo di 71 anni che si stava recando in città. L'incidente è accaduto ieri nel primo pomeriggio. Papà e figlia sono stati subito soccorsi e trasportati in ospedale, hanno riportato politraumi ma non sono in pericolo di vita. Lungo la stessa strada, più o meno alla stessa ora, era accaduto anche un altro incidente. Un tamponamento di quattro vetture coinvolte. Le persone risultano ferite in modo lieve. La Corte d'Appello di Venezia ha confermato la condanna di Gianni Zonin per il crack della Banca Popolare di Vicenza, ma ha accordato al banchiere un grosso sconto di pena, 3 anni e 11 mesi, quando la Procura Generale aveva chiesto 5 anni e 10 mesi, contro i 6 anni e 6 mesi inflitti in primo grado. La sentenza è stata letta ieri sera nell'aula bunker di Mestre dal presidente Francesco Giuliano. Stessa condanna, 3 anni e 11 mesi, per l'ex direttore generale Andrea Piazzetta, così come per l'ex consigliere Massimiliano Pellegrini, 3 anni e 4 mesi per l'altro ex direttore generale Paolo Marin, 2 anni e 7 mesi per l'altro ex direttore generale Emanuele Giustini. L'omicidio di 2 poliziotti all'interno della questura di Trieste. Come previsto, la Procura Generale di Trieste ieri ha presentato appello contro la sentenza di primo grado del Tribunale con la quale Stefan Meran, Alejandro Augusto, è stato assolto dall'accusa del duplice omicidio dei poliziotti Matteo De Menego e Pierluigi Rotta. Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia dell'intenzione della Procura Generale di impugnare la sentenza. I 2 agenti furono uccisi in questura nell'ottobre di 3 anni fa e Meran fu assolto in quanto ritenuto non imputabile. A questo punto l'ufficio dovrà chiedere l'esecuzione di un'altra perizia psichiatrica. Da tempo non si vedevano tanti migranti arrivare alla spicciolata in un'unica mattina. È accaduto ieri, proprio a quest'ora. 110 giovani sono stati rintracciati alle porte di Trieste tra i comuni di Muggia e San Dorligo della Valle, da Monte d'Oro a Via Flavia, tutti privi di documenti. Sono cittadini afghani ma anche indiani o partiti dal Medio Oriente. Nessuno ha trascorso la notte alla Diaccio, ha garantito il prefetto di Trieste, Annunziato Verdè. 1400 le persone accolte nelle strutture della regione, di queste 280 sono gli ucraini. Le strutture sono al limite e si sta provvedendo ai trasferimenti. Trieste a breve aprirà una nuova struttura di bassa soglia accanto alla stazione dei treni. Noi siamo molto impegnati per gestire in qualche modo il flusso. Ora non tutti i 110 chiederanno accoglienza, per quelli che chiedono accoglienza noi facciamo il massimo sforzo per cercare di assicurare un'accoglienza dignitosa. La settimana scorsa ne abbiamo trasferiti 300 in tutto il Friuli Venezia Giulia, questa settimana abbiamo ottenuto 200 posti per tutto il Friuli Venezia Giulia, 60 sono già partiti oggi, altri 30 partiranno per domani e dopodomani e altri 30 sono in programma. Quindi, nessuno di questi giovani resterà in strada comunque? Beh, noi faremo il massimo sforzo, le posso dire che stiamo lavorando intensamente insieme al sindaco per creare una struttura di bassa soglia, cioè una struttura cuscinetto per ospitare provvisoriamente chi chiede accoglienza in attesa che si liberano i posti nei nostri centri di accoglienza nella rete CAS. Quando sarà pronta? Ma guardi, davvero ci stiamo accelerando al massimo. Dove sarà? Dietro la stazione, insieme al sindaco ha già dato la disponibilità e insieme a lui, insieme alla struttura comunale, stiamo lavorando per accelerare i tempi. Che siano arrivati così tanti in un'unica giornata sta a significare che lungo la rotta balcanica lasciano particolarmente passare, è cambiato qualcosa o non è possibile dirlo? Beh, questo su due piedi, guardi, questa è una valutazione complessa, non posso esprimermi così su due piedi. cercheremo di approfondire e di cercare di capire perché il flusso continua, anzi aumenta rispetto ai mesi scorsi. In Friuli Venezia Giulia mancano medici di famiglia, infermieri e guardie mediche. L'allarme viene dalla Corte dei Conti. Un rapporto pubblicato dalla magistratura contabile sull'assetto organizzativo dell'assistenza sanitaria territoriale mette in luce dati al di sotto degli standard nazionali. Il report della Corte dei Conti certifica una carenza di medici e infermieri ben al di sotto gli standard nazionali e il fabbisogno della sanità del futuro ridisegnata dal PNRR. Una fotografia sulle principali criticità, a partire dalla carenza di medici di famiglia, oltre i limiti di legge in due aziende sanitarie su tre, la Friuli Centrale e la Giuliano Isontina. Non va meglio sul fronte infermieri, del tutto insufficienti a garantire il ruolo chiave nell'ambito del nuovo modello organizzativo della sanità territoriale, osservazioni che devono essere intese come la manifestazione di uno spirito collaborativo, non di censura dell'operato della Regione, precisa in premessa la magistratura contabile, che riconosce gli sforzi dell'amministrazione nel cercare di attenuare il fenomeno nei limiti delle sue competenze. Un'utile e preziosa presa di posizione, commenta l'assessore alla salute Riccardi, ci consentirà di poter fare ulteriormente leva sullo Stato e sul nuovo governo per una modifica delle regole vigenti sul personale sanitario che punti a risolvere carenze comuni a tutta Italia, aggiunge, questione definita prioritaria anche dal governatore Fedriga e di recente sollevata da tutte le regioni in un documento unitario. Sulla stessa linea i presidenti regionali degli ordini professionali degli infermieri Giglio e dei medici Lucchini confermano il quadro, salvo che per la medicina di gruppo, a suo dire più diffusa di quanto indicato dalla Corte dei Conti, Lucchini ricorda che all'appello in regione mancano 120 medici di famiglia, all'ultimo concorso hanno risposto in 12, solo la metà ha accettato l'incarico. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Il caro energia mette in crisi il commercio dal Friuli. Il presidente di Confcommercio Sangalli chiede un nuovo recovery fund e misure eccezionali per evitare la chiusura di 120.000 imprese. Il prossimo governo la deve mettere, come mi pare di capire abbia già preannunciato, come nell'agenda, come priorità assoluta, il caro energia. Chiede un nuovo recovery fund energetico a livello europeo e urgenti misure nazionali per evitare la chiusura di 120.000 imprese, il presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli, in regione per conferire un riconoscimento a chi nel terziario festeggia 25, 40 e 50 anni di attività. Abbiamo chiesto ad alcuni dei premiati come la crisi stia iniziando a bussare alle porte dei loro esercizi commerciali. Antonella Colutta, farmacista di Udine. Lo vediamo sia dal punto di vista dai numeri degli ingressi che stanno rallentando notevolmente, nonostante la pandemia abbia rialzato un pochino la testa, ma anche dal punto di vista proprio dell'approccio economico del paziente, il quale spesso ci chiede quanto costa quel prodotto. Succede che abbiano proprio il budget predefinito, cosa che non avveniva negli ultimi anni, non mi è mai capitato. Mauro Boccinger, albergatore di Sappada. Le prenotazioni sono un po' ferme, la gente chiede soprattutto il Capodanno. Ci saranno ricadute occupazionali quest'inverno sulla vostra platea di lavoratori usuale per l'inverno? Oddio, io penso che qualcosa ci sarà senz'altro, perché il problema c'è, il problema esiste. La gente è in confusione e chiaramente il problema è per noi, ma il problema è anche per il turista che deve poi venire in albergo. Mario Lizzi, macelleria e ristorazione a Fagagna. Dobbiamo darci una regolarizzazione anche nel modo di lavorare, nel modo di consumare e consumare, non sprecare. Moimacco, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ieri l'incontro dell'RSU con il nuovo amministratore delegato di Wärtsilä Italia, Michele Cafagna. Sentiamo come è andata e sentiamo quali cominciano ad essere gli effetti dell'avvertenza Wärtsilä sull'indotto locale. Il cambio di strategia è sempre più chiaro, i prossimi passi saranno presi insieme ai sindacati. Il nuovo presidente e amministratore delegato di Wärtsilä Italia, Michele Cafagna, ha incontrato per la prima volta dal suo insediamento le RSU aziendali. Un incontro di presentazione, ma in cui è emersa la volontà del nuovo vertice di aprire una nuova modalità di relazioni. Del futuro del sito produttivo di Bagnoli della Rosandra non si è ancora parlato, a parte un accenno di Cafagna, per cui la soluzione più giusta sarebbe quella di una reindustrializzazione. Nel frattempo nel sito triestino la produzione è quasi ferma, le materie prime non arrivano più da luglio scorso. Prima che si sappia qualcosa sulla vertenza bisognerà aspettare 6-8 mesi, ipotizzano i sindacati. L'azienda dovrà comunicare cosa intende fare in questo tempo. Il rallentamento della produzione ha già portato le prime conseguenze per le aziende dell'indotto attive sul territorio. In 7 hanno già firmato in questi giorni la cassa integrazione che coinvolge un centinaio di lavoratori. Tra queste imprese come C-Metal, Saif, Servigen, Europromos. A rischio ammortizzatori sociali anche i dipendenti della Camst che gestisce la mensa. Alcune aziende che si occupano di lavorazioni specifiche hanno Wärtsilä come unico committente e sono queste a preoccupare di più. Il timore è che i posti di lavoro a rischio nell'indotto possano salire a più di 300. Di questo si parlerà oggi in un incontro chiesto dai sindacati al numero 1 di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Grusti. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. L'Egitto non collabora e se non si trovano gli agenti dei servizi egiziani considerati responsabili della morte di Regeni ai quali notificare le carte del procedimento penale, il processo non può andare avanti. Ieri un nuovo rinvio. Resta sospeso il procedimento penale sull'assassinio di Giulio Regeni. Il giudice per l'udienza preliminare che si è tenuta al Tribunale di Roma lo ha posticipato al 13 febbraio. 4 mesi per trovare i 4 agenti dei servizi segreti egiziani accusati di aver rapito, torturato e ucciso il ricercatore di Fiumicello nel 2016 e per notificargli il processo a loro carico, atto senza il quale non ci può essere il processo. Da parte dell'Egitto non c'è alcuna collaborazione. Il capo dipartimento Affari di Giustizia del Ministero, Nicola Russo, lo ha ricordato in audizione. Non abbiamo avuto nessuna risposta né all'ultima nota inviata il 6 ottobre né alla richiesta di incontro fatta dalla ministra Marta Cartabia nel gennaio scorso. Ne ha portato risultati la missione al Cairo compiuta a maggio per sollecitare le autorità egiziane ad acquisire informazioni sugli imputati. Se ce n'era bisogno, è emerso ancora una volta e con ulteriore chiarezza che le autorità egiziane non hanno né hanno mai avuto nessuna intenzione di collaborare, hanno dichiarato i genitori di Regeni assistiti dall'avvocato Alessandra Ballerini all'uscita dall'udienza, dove li attendevano i partecipanti al sit-in della rete Giulio Siamo Noi, riuniti per continuare a chiedere verità e giustizia. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca, un uomo di 62 anni di San Quirino è rimasto seriamente ferito in un incidente di caccia accaduto ieri durante l'attraversamento di un campo di mais. È stato colpito al polpaccio da un colpo di fucile partito accidentalmente a un amico di 66 anni con cui si trovava in battuta e che è involontariamente scivolato alzando la leva di sparo. Il ferito, trasportato d'urgenza all'ospedale di Pordenone, è stato giudicato guaribile in 30 giorni. Il cacciatore è stato deferito alla Procura della Repubblica per lesioni colpose, mentre la sua arma, un fucile Benelli M2 calibro 12 regolarmente detenuto, è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti. Indagini dei carabinieri di Aviano. Un'auto si è ribaltata e ha preso fuoco questa notte intorno alle 3 lungo Viale Venezia all'altezza della nuova rotonda a Udine. Per cause in corso di accertamento il conducente della vettura ha perso il controllo del mezzo. Il giovane è stato subito soccorso ma non ha per fortuna riportato lesioni gravi. Riprendono oggi le ricerche di Alberto Cacitti, 81enne tolmezzino, la cui auto è stata ritrovata in località Avons mercoledì scorso. Tante le forze messe in campo dal soccorso alpino, ai vigili del fuoco, la protezione civile e i carabinieri, a setacciare i 535 ettari di territorio dove si presume l'uomo si sia perso, unità cinofile, cani molecolari, droni ed elicotteri. L'area battuta è stata quella compresa tra il ponte di Avons e le località di Chiaulis e Intissans verso Cavazzo. Il corso del tagliamento da Caneva fino al ponte della superstrada che va verso Amaro e i torrenti della zona. E ora parliamo di Barcolana. Sono stati archiviati i ricorsi presentati, rimane esclusa dal podio Way of Life la barca che aveva avanzato 2 contestazioni nei confronti di Arca e di Furio Benussi. La giuria internazionale non ha accolto la protesta relativa all'abbandono della vela in acqua durante la regata, considerandola invalida in quanto il protestante non aveva informato tempestivamente Arca dell'intenzione di protestare. I giudici quindi non sono entrati nel merito della protesta, che si riferiva al divieto di abbandonare in mare qualsiasi cosa. Per quanto riguarda il comportamento antisportivo di Benussi per frizioni avvenute a fine gara, la giuria internazionale ha ritenuto di non avere sufficienti prove per poter penalizzare lo skipper. Nulla cambia quindi nelle prime posizioni della classifica di Barcolana, con Arca che mantiene il secondo posto guadagnato sul campo di regata. E a proposito di Barcolana, i numeri dell'ultima edizione sono da record, con grande soddisfazione di bar, ristoranti e negozi. 42.000 le persone arrivate in treno a Trieste, camere occupate in hotel e bed and breakfast al 97%, e sabato sera più di 70.000 persone in centro e sulle rive. Il bilancio in questo servizio. Un affare per la città, ma ancora tutto da valutare. Stimare le presenze generate da un grande evento, specialmente a caldo, è impossibile. L'impressione però è che la Barcolana, conclusa con la prima donna al Simone vincitrice, possa essere andata oltre ogni record, al di là di un colpo d'occhio del Golfo con meno vele in acqua, 1615 partenti contro gli oltre 2100 del 2019, figlio del fisiologico calo di iscrizioni post-cinquantenario del 2018. In treno, dati diffusi da Trenitalia, sono arrivate 42.000 persone, 3.000 in più dell'ultima regata pre-pandemia. Il tasso di camere occupate negli alberghi la notte tra sabato e domenica è stato del 97%, numeri analoghi per affitta stanze e bed and breakfast, con prezzi ritoccati verso l'alto e prenotazioni già per l'anno prossimo. E, secondo la polizia locale, la stessa sera erano in città a festeggiare più di 70.000 persone sulle rive cittadine nelle zone limitrofe, compresi ovviamente i triestini. Incalcolabili come sempre le presenze delle tribune naturali sul Carso, ma per le vie del centro, tra venerdì e l'immediato dopo regata, non si ricorda una partecipazione così entusiasta, rumorosa e tutto sommato senza grandi problemi. I residenti, come logico, si sono lamentati del frastuono di DJ set in strada dopo l'una, orario dove in teoria la musica doveva essere spenta salvo deroghe. Ma i vigili sono dovuti intervenire solo 7 volte in tutta la notte, 3 delle quali in periferia. Rispetto al passato, quando la premiazione chiudeva di fatto l'evento, anche il pomeriggio e la sera della domenica sono state decisamente più movimentate. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. I costi delle tariffe energetiche schizzate alle stelle colpiscono anche i grandi eventi degli sport invernali. In Friuli Venezia Giulia, annullate le due gare di sci di fondo che sarebbero dovute partire da Tarvisio durante i mondiali di sci nordico. Non partiranno più da Tarvisio le gare di fondo delle 30 e 50 km previste il 4 e 5 marzo del 2023 durante i mondiali di sci nordico della vicina località slovena di Planica. A comunicarlo alla regione sono stati i vertici del comitato organizzatore, adducendo difficoltà legate alla sostenibilità del progetto transfrontaliero e ai costi dei consumi energetici cresciuti vertiginosamente. Fino all'ultimo il capoluogo della Valcanale aveva sperato in un'importante vetrina mediatica dell'evento che avrebbe visto la partenza dalla piazza principale, poi lungo la ciclovia Alpeagia fino al confine di Fusine per terminare infine in territorio sloveno. Era stata la stessa FIS, la Federazione Internazionale dello Sci, a comunicare questa primavera l'intenzione di effettuare le due prove in due stati diversi, sull'esempio dello sci alpino che in questa stagione vedrà per la prima volta due gare di discesa con il cancelletto sulle nevi svizzere di Zermatt e il traguardo in Italia a Cervinia. Anche il mondo degli sport invernali comincia a sentire quindi le criticità dovute ai rincari energetici. Nella nostra regione comunque le tariffe speciali degli ski pass per lo sci agonistico non subiranno alcun aumento rispetto allo scorso anno, garantendo la fruibilità degli impianti di risalita a prezzi calmierati in tutti i 6 poli sciistici della nostra regione. Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Vediamo le attività del Consiglio regionale. Stamane la commissione di Diego Bernardis, Lega, esaminerà il DDL 176 sull'autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Alle 13.30 il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, presieduto da Roberto Cosolini, si esprimerà sul DDL 173 sulla disabilità, che completerà il giro dei pareri giovedì 13. E con l'autunno, si sa, arrivano le ultime variazioni di bilancio in vista della legge di stabilità di fine anno. In un anno denso di appuntamenti per il centenario della nascita di Pasolini, Cinema Zero e Cinema Visionario offrono al pubblico la proposta forse più semplice ma anche meno battuta e quella più necessaria: far parlare l'intellettuale con le sue opere, mostrare i suoi film sul grande schermo nel migliore dei modi possibili, in copie restaurate di eccellente qualità. Da ottobre a gennaio una carrellata di pellicole. Primo appuntamento questa sera a Pordenone alle 20.45 con Accattone, il film Desordio di Pasolini. Si replica domani a Udine. L'iniziativa è promossa in modo complementare alla mostra fotografica Pierpaolo Pasolini sotto gli occhi del mondo, che continua a Villa Manin e al Centro Studi di Casarsa. Abbiamo raggiunto il curatore della rassegna cinematografica, Riccardo Costantini, che spiega la necessità di guardare e riguardare Pasolini. Di Pierpaolo Pasolini non si vedono da molto tempo, non si vedono su grande schermo, non si vedono bene. È stato un autore che è stato martoriato dalla censura quando era vivo, ma non ha avuto miglior fortuna successivamente. Molti dei suoi film sono stati dunque restaurati e sono degli autentici capolavori, non spendiamo questa parola spesso, e bisogna proprio dirlo che vederli su grande schermo è una gioia per gli occhi, vale davvero la pena riscoprirli. Avete scelto l'ordine cronologico di tutti i film e naturalmente film che poi vengono spiegati, raccontati. Sì, l'ordine cronologico è un atto in qualche modo dovuto, perché Pierpaolo Pasolini come autore ha una progressione, ha dei momenti in cui rinnega la sua carriera precedente e i film sono quindi maggiormente comprensibili se si vedono uno di fila all'altro. E poi iniziare la retrospettiva con Accattone, Mamma Roma, il Vangelo secondo Matteo, tutti sognerebbero una retrospettiva di questo tipo. Poco fa parlava della censura, l'ultimo film, il primo febbraio a Udine sarà Salò o le 120 giornate di Sodoma, forse quello è quello che ha fatto più scalpore. Visto oggi, secondo lei, a cui siamo abituati a tutto? È un film perfetto per l'epoca contemporanea. Pasolini è stato spesso accostato alla parola profeta, noi come Cinema Zero in particolare abbiamo spesso lavorato al contrario per cercare di calarlo nel suo periodo storico. Bisogna però dire che alcuni film sono stati davvero evocativi di quello che sarebbe successo poco dopo. Il consumismo che corrompe, il contrasto sociale molto forte sono uno dei temi chiave di Salò, un film che all'epoca era irricevibile. Lo sarebbe ancora oggi per quello che si vede su schermo, eppure però è un film di tremenda denuncia su quello che purtroppo probabilmente siamo diventati, cioè abituati a consumare anche i corpi, a corrompere le regole. La storia di Giulietta e Romeo, che Verona e Udine si contendono da tempo, ora a raccontare la più famosa delle storie d'amore sono dei pannelli multilingue installati in piazza Venerio, dove sorgeva l'antico palazzo Savornian, dove ci fu il colpo di fulmine. Udine rivendica le radici storiche del racconto d'amore contrastato più famoso al mondo, quello di Romeo e Giulietta. Per suggellare la riappropriazione dell'origine del mito reso grande da Shakespeare, sono stati installati 9 pannelli che raccontano la storia in 4 lingue diverse: italiano, friulano, tedesco e inglese. Il luogo scelto per collocare i 9 pannelli è Piazza Venerio, dove sorgeva l'antico Palazzo Savornian, teatro il 26 febbraio del 1511 dell'incontro e colpo di fulmine tra Lucina Savornian e Luigi da Porto, alias Giulietta e Romeo. Ugo Falcone, presidente Comitato Internazionale Giulietta e Romeo in Friuli. A Verona il mito è la storia vera, a Udine e sta scritto nella novella autobiografica di Luigi da Porto, il vero protagonista che scrisse retrodatando all'al 300 la novella, che in realtà è una storia vera ambientata appunto nel 1511. Si innamorarono, Luigi da Porto, capitano di truppe veneziane, lui si trovava tra Gradisca di Sonzo e Cividale del Friuli, era a distanza in quei territori. Poi dopo l'innamoramento, purtroppo in una battaglia proprio tra truppe imperiali e veneziane, lui rimase gravemente ferito e in quel caso disabile e paralizzato, e non potete più sposare Lucina Savognani. Lui, addolorato, da Montorso Vicentino scrisse le sue memorie, ovviamente camuffando i nomi ma già chiamandoli Romeo e Giulietta. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Alle 7.46 cominciamo la rassegna stampa, cominciamo dal Piccolo di Trieste, la prima pagina è ancora dominata dalla barcolana. Titolo principale, la barcolana della riscossa, Trieste mai così affollata, questo appunto il titolo principale, il sindaco, partecipazione incredibile, bar e ristoranti soddisfatti, turisti di qualità. Sotto una serie di richiami sempre relativi alla regata, Jaluz, che è il presidente della società, superate tutte le aspettative, Deep Blue invitata a tornare in golfo. poi ricorsi archiviati, Way of Life resta esclusa dal podio, il team Benussi e la vela in mare, scelta inevitabile visto il pericolo, e poi Wendy, che sarebbe la miliardaria americana che ha vinto la barcolana, da Metullio, lo chef del ristorante dove ha portato tutto l'equipaggio a cena. Sopra l'Egitto snobba il processo, i genitori di Giulio Regeni, Roma reagisca. La crisi Varzila, il nuovo AD pronto al confronto al tavolo del Mise e in regione. Sopra Mattarella premia Balbinò, top manager di Allianz. Infine fiamme al fast food, fumo in tutta la città. Il titolo di apertura dell'edizione di Gorizia, edilizia e nautica, i settori più colpiti dal caro bollette, piccole e medie imprese in sofferenza, ma solo il 5% rischia di chiudere. E poi pronta la terrazza sul porticciolo, siamo a Monfalcone. Una decina di furti nelle abitazioni di Romans di Sonzo, servizi per i disabili con la nuova riforma, il CISI sotto Asugi, e infine pista ciclabile a Belvedere, in pericolo il gelso secolare. L'apertura del Messaggero Veneto è dedicata al crack delle popolari e nello specifico alla pena ridotta. Gianni Zonin, presidente della Banca Popolare di Vicenza, 3 anni e 11 mesi in appello contro gli oltre 6 inflitti in primo grado, come abbiamo detto poco fa. Poi la fotonotizia in taglio alto delle bombe sganciate ieri in tutta l'Ucraina, la ferocia di Putin è il titolo, sempre con richiamo in prima alle imprese che hanno saputo reagire alla crisi. Ieri la premiazione alla Camera di Commercio di Udine Pordenone con il presidente Sangalli di Confcommercio. L'apertura della pagina della cronaca di Udine è dedicata alla carenza di pediatri in città, chiude lo studio di Via Pozzo, 900 bambini senza più medico, e allora le famiglie firmano una petizione affinché il medico che era venuto da qualche mese in sostituzione rimanga. E poi il caso di malasanità, terapia del dolore, almeno 4 mesi per ottenere la prima visita, situazione peggiore anche rispetto al periodo pre-pandemico. Il Messaggero edizione di Pordenone ha una prima pagina sostanzialmente identica a quella di Udine. La pagina della cronaca cittadina apre con la viabilità che non cambia, entrare in città resta un problema, scrive il giornale, e poi una notizia di cronaca, un cacciatore che inciampa, spara e ferisce alla gamba l'amico, l'abbiamo sentito prima. Siamo al Gazzettino, le due prime pagine degli inserti dedicati a Pordenone e Udine sono molto simili soprattutto i titoli principali. Quello centrale riguarda la politica regionale, via libera alla lista Fedriga, il presidente ora potrà contare su alcuni sindaci, progetto FVG dell'assessore Bini e sui fuggiaschi di Forza Italia. Sempre per la politica, intanto il PD pensa al terzo polo e mentre il PD pensa, Terzo Polo e 5 Stelle cercano alleati. Nella prima di Pordenone la fotonotizia è per un cantiere, fibra ottica, i cantieri della discordia, lavori fatti male, buchi sulle strade, il comandante annuncia controlli. Siamo come detto a Pordenone. Sempre a Pordenone, Friuladria ai saluti, il 28 novembre l'atto finale, la direzione generale di Credit Agricole manda in pensione l'onorata banca pordenonese. Premiate le eccellenze, ma bollette e rincari fanno paura per il futuro, l'articolo che riguarda appunto le premiazioni con Sangalli. E ancora per la cronaca, dopo il furto va in cella, la madre non lo vuole a casa, si parla di un 21enne di Morsano al Tagliamento. San Quirino, cacciatore inciampa, parte un colpo e ferisce l'amico a un polpaccio. Come detto, la prima del Gazzettino di Udine è molto simile, la fotonotizia è diversa. Lo studio che interroga il Covid, questo è il titolo, ne abbiamo parlato ieri, i ricercatori dell'Università di Udine hanno pubblicato i risultati appunto di questo studio relativo al Covid. E ancora per il calcio, Pozzo non si nasconde più, Udinese vai in Europa, e gli allievi del Malignani nel tempio dell'High Tech, si parla di una trasferta a Roma per questi studenti. Fabbricare società, il primo forum delle società benefit è stato promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, un'iniziativa che mette al centro il lavoratore e il suo benessere nell'organizzazione. La giornata di workshop si sviluppa oggi a Trieste tra le 9 e le 17.30 tra il Molo Quarto, il Caffè degli Specchi e il Palazzo della Regione. Tra i temi del convegno anche l'equità salariale con la Foundation Equal Salary di Zurigo, ente certificatore riconosciuto. Il sistema bambino tra emergenza sanitaria e sociale e rifocalizzazione del sistema di welfare è il tema del convegno che si tiene oggi dalle 10 alle 13 a Pasian di Prato nella sala convegni dell'IRCCS. Tra i temi infanzia e adolescenza, tra emergenza ed evoluzione dei bisogni in rapporto al sistema regionale di welfare. La prospettiva è quella di un piano regionale per il benessere dell'infanzia e dell'adolescenza, per cui Federsanità ANCI, Friuli Venezia Giulia, ha attivato da oltre un anno uno specifico gruppo di lavoro regionale. L'incontro è aperto al pubblico fino ad esaurimento dei posti disponibili. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle ore 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano VE o Fevelin D parlerà dell'innovativo progetto SILC che consente il ritorno del bacco da seta nella nostra regione. A seguire dalle 11.20 circa Radar SOS Maltempo Prevenzione e Mitigazione del Rischio, il costo dello spreco alimentare, sostenibilità della ricerca farmaceutica e la rubrica Almanacco Scientifico. I programmi regionali tornano poi alle 13.29. Finisce qui questa prima edizione del giornale radio regionale che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Anna Vitaliani. In regia per la parte tecnica Federico Comar, ha collaborato in redazione Cristina Polselli. A tutti voi grazie per averci seguito e ancora una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati. Dal centro operativo dell'automobile Credit Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è improntato alla variabilità, con più sole sulla costa, possibili precipitazioni lungo la fascia montana, mentre la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria e in direzione dei maggiori centri urbani, senza che al momento si registrino problemi di particolare rilievo. Sulla A4 Trieste-Venezia il traffico è più intenso nei tratti dove si passa da 3 a 2 corsie, raccomandiamo attenzione alla possibilità di rallentamenti, quindi in particolare tra la Tisana e Porto Gruaro e tra San Sino di Livenza e San Donà di Piave in entrambe le direzioni. Sulla A23 Alpe Adria, attenzione ad uno scambio di carreggiata presente tra Udine Nord e Gemona, dove per 6 km è chiusa la direzione nord, si viaggia a doppio senso di marcia in carreggiata sud, e poi altri scambi di carreggiata sono presenti tra Guvizza e Tarvigio, tra Tarvigio e Coccao, con il coinvolgimento di gallerie. Sulla raccordo autostradale RA14, la diramazione Opicina-Fernetti, attenzione ad un cantiere dove è chiusa la corsia di sorpasso in entrambe le direzioni. E in zona analoga limitazione anche sulla statale 202 ex Grande Viabilità Triestina, tra gli svincoli di Grandi Motori e Cattinara. Anche qui è chiusa la corsia di sorpasso, si viaggia sulla sola corsia di marcia in entrambe le direzioni. Sul tratto A Sistiana-Rabuiese ci sono cantieri con riduzione di carreggiata all'interno della galleria Carso, siamo tra Cattinara e Padriciano, e poi all'interno della galleria Monte d'Oro, in entrambi i casi in direzione Venezia. Segnaliamo poi lungo la viabilità ordinaria sulla statale 13 Ponte Bana, ci sono cantieri in più punti, in particolare nel comune di Tricesimo c'è una deviazione con indicazioni sul posto per il traffico diretto verso Udine e Tarvisio, mentre un transito a senso unico alternato sempre sulla Ponte Bana è presente in località Coccau. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia, Strade, Autovie Venete e ACI, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia. A tutti gli auguri di una buona giornata. Onda Verde. Viaggiare informati.